7.04 minuti, puntuali o quasi, metà settimana, mercoledì magico di Radio Città Fujiko a sfondo letterario, parte quindi con la nostra playlist e non solo letteraria. Qui con noi puntuale e presente Stefano, che salutiamo come notaio e come tecnico del nostro format letterario, ma abbiamo anche Silvia Albertazzi già in trincea, in posizione di presentazione. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo, come ho già detto, a dare spazio a quella che è la selezione per la lettura della settimana o le letture della settimana, grazie alla collaborazione con Libreria Ubic in via Irnerio 27 a Bologna. Silvia, vedo che sei in vena di regali, hai sia delle bozze che un libro. No, non sono in vena di regali. Ok, vedi subito. Iniziare con no è bellissimo, comunque vai Silvia, vai. No, mi sono un pochino... Diciamo così, sono rimasta un po' stupita dal fatto che tu abbia salutato prima Stefano. Vabbè, non lo saluto mai per primo, voglio dire, una volta che do mi, mi è sembrata una forma di maschilismo. È proprio il momento di sottolineare questa specificità, guarda. Poi hai detto, okay. E poi abbiamo qui anche Silvia, anche, okay. Cioè, un okay. Di più. Dai, no, vabbè, scherzo, non è che... No, sì, faccio il solito regalo, però non regalo tutto il bell'oppo. Vedo anche, che è bello corposo. Anche perché devo ancora fare, mi serve, il libro mi serve perché devo ancora fare la recensione. Invece regalo le bozze, se qualcuno le vuole, sono assolutamente uguali al libro, semplicemente sono bozze rilegate e non è un libro. Ed è altrettanto prezioso perché appunto sono di consulto a Silvia, quindi abbiamo un valore aggiunto ulteriore. Vedo nuovamente protagonista la etichetta, la casa editrice Fazzi, correggimi se mi sbaglio. Sì, Fazzi. Ho visto bene questa volta. Sì. E di chi si tratta? Si tratta di uno degli scrittori più importanti della letteratura australiana contemporanea, cioè Tim Winton, con un romanzo che si chiama Il capanno del pastore. Tim Winton è un autore molto famoso e molto amato anche in Australia, relativamente giovane, perché è nato nel 1960, beh, insomma, non è un bambino, però è già un bel pezzo che scrive. Ed è, fin dai primi romanzi è stato molto molto amato in Australia, mentre devo dire che in Italia hanno già tradotto diversi suoi romanzi, ma non ha avuto un grande successo, ed è un peccato perché è un autore notevole, è un autore che va conosciuto secondo me e va anche eventualmente riscoperto. Questo libro, Il capanno del pastore, in particolare è un libro che ha, secondo me, ha due caratteristiche fondamentali. Prima di tutto è molto australiano. Io credo che Tim Winton, di tutti gli autori australiani, sia il più australiano, perché poi è stanziale. Che caratteristiche hanno? Questa attenzione molto forte alla natura, a questa natura che è spesso una natura profondamente matrigna, diciamo, anche ostile, insomma, il deserto, il bush, queste terre aride, queste enormi distese di terra dove non trovi una casa, non trovi un animale, o forse gli animali sì, ma non trovi un essere umano. Questa solitudine enorme, quindi anche il fatto che sia una nazione dove, a fronte di un paio di metropoli, ma un paio a farla grassa, direi una metropoli che è Sydney e due Melbourne, poi ci sono delle città di piccole dimensioni, ma soprattutto ci sono delle vastità di niente, e quindi l'uomo che deve ancora oggi lottare con questa natura, e anche il modo come affronta la vita quotidiana è un modo abbastanza duro, abbastanza forte, il linguaggio è molto tagliente, se vogliamo, ma soprattutto nel caso di Winton è un autore che, a differenza degli altri grandi autori australiani, da Peter Carey, che però adesso vive in America, a Malouf, che ha vissuto parte addirittura per molti anni in Toscana qui da noi, oppure non so, Richard Flanagan, che vive in Tasmania, però ha fatto romanzi ambientati in America, ha fatto romanzi ambientati in giro per il mondo anche. Tim Winton invece è stanziale, Lui abita nel Western Australia, credo che abiti a Perth, e da lì non si muove e parla di realtà contigue. Anche questo romanzo infatti parla del mondo che c'è nel Western Australia quando tu esci da Perth, perché Perth è una città grande, non so, sarà grande poco più di Bologna e non è che sia una metropoli. Quindi non è per un continente, non è una metropoli. Ma quando esci è il vuoto, è il deserto, ci sono... Non c'è Calderara. No, non c'è Calderara. Già, non... voglio dire, sono stato molto... C'è Fremantle che è la loro Calderara, se vuoi, ma poi dopo vai un pochino più avanti, puoi andare per ore in macchina senza trovare niente. Allora, questa è la storia di un ragazzino che abita in uno di questi paesini, che poi sono poco più che villaggi, nel Western Australia. Lui dice, e vuole fuggire verso la città anche, dice, ogni tanto lo dice, ma potrei andare a Perth, in fin dei conti è vicinissimo, sono 4 ore di macchina. Vedi? Cioè noi con 4 ore di macchina arriviamo a Trieste, capisci? Cosa... E anche più in là. Ecco, sì, appunto. Sì. Lui appunto fugge da una realtà molto dura a casa sua, perché aveva questo padre alcolizzato che picchiava sia lui che la madre, e a causa di un episodio tragico che succede in casa sua, cioè la madre è già morta per un cancro e il padre, lui arriva e trova il padre morto sotto la sua auto. Probabilmente aveva il padre ubriaco, aveva cercato di fare una riparazione sotto la macchina, e la macchina gli è caduta addosso. Ahi. Quindi lui, quando si rende conto di quello che è successo, il primo pensiero che ha è fuggo, perché se resto nel prima di tutto, così finalmente ho la libertà, perché questo padre veramente lo picchiava in continuazione, cioè, e poi dopo, però, se resto qui tutti penseranno, tutti lo sanno come mi trattava mio padre, penseranno potrebbe che sono stato io. Quindi, e allora comincia a fuggire senza sapere di preciso dove andare, portandosi dietro poche cose che pensa gli siano utili che per la sopravvivenza, e noi assistiamo alla fuga di questo ragazzo in questa enorme vastità, con tutti i pericoli che può, soprattutto più che pericoli, con i problemi che ha, appunto, di procurarsi da mangiare, finite le poche risorse che si è portato dietro, procurarsi l'acqua, e quello che fino a che non arriva appunto a un capanno dove incontra uno strano personaggio che poi risulta essere una specie di prete spretato, che non capiamo perché l'abbiano confinato così ai confini del mondo, anche lui da solo in una realtà completamente isolato dal resto della società, e non sapremo mai di preciso il mistero che c'è dietro questa persona. Però sta di fatto che prima si guardano con sospetto, soprattutto il giovane non vuole avere niente a che fare, poi poco alla volta creano in qualche modo un'amicizia e si aiutano. Questo personaggio è molto vecchio, il ragazzo mi viene spontaneo dire bambino, perché a un certo punto dice di avere 17 anni, ma il prete gli dice no, tu al massimo ne avrai 15. E quello che è bello in questo libro, è veramente un libro molto bello, raccontato come l'ho raccontato io, sembra la solita storia di sopravvivenza, del personaggio da solo in mezzo alla vastità della natura. Ma quello che è bello è che è tutto raccontato attraverso la voce di questo ragazzino che racconta in prima persona e che ha una voce molto particolare, che si riconosce subito, perché parla proprio come un ragazzotto della sua età, quindi in maniera a volte sgrammaticata, a volte saltando di palo in frasca, facendo tutte queste considerazioni che sono abbastanza ingenue, se vogliamo, ma che lui fa credendo di avere fatto delle grandi scoperte anche filosofiche, e soprattutto c'è questo suo desiderio enorme di arrivare. Lui sa dove vuole arrivare, ma arrivarci a piedi in mezzo all'outback australiano non è uno scherzo. E vuole arrivare appunto da questa ragazza che gli piace, che è una sua cugina, che gli hanno proibito di vedere dopo che hanno scoperto appunto che tra loro c'era un qualche legame. E tutto questo è raccontato in un modo che veramente ti dà i brividi, perché ti sembra proprio di essere dentro la testa di questo ragazzo e di soffrire insieme a lui quello che sta provando. Io se dovessi dargli etichettare questo romanzo, è un romanzo che sta a cavallo tra il romanzo di sopravvivenza alla Cormac McCarthy, per dire, che non è esattamente il tuo modello, esattamente il mio modello, però questo è un romanzo di sopravvivenza. Ci sono anche dei momenti abbastanza intensi, ecco. Soprattutto quando lui deve procurarsi da mangiare, ed essendo figlio di un macellaio e avendo aiutato suo padre fin da piccolo, si mangia un canguro nella macelleria. Certo, no. Ecco, vedi, guarda, giuro. Ma che guarda, non l'ho che letto. Guarda che canguri li mangia. Sì, no, dicono anche che è una carne molto magra, sì, e molto forte, quindi solo che sana. Il canguro, prima di mangiarlo, lo deve ammassare, sì, ecco, prenderlo. Questo è il punto. Sì. E lui ti spiega appunto che poi lo scuoia, eccetera, e lo mette, lo appende ad essiccare. Poi dopo gli succede. Ah, certo, lui fa tutto il suo trattamento, sì, essendo figlio d'arte, se vogliamo. Quindi, appunto, queste parti magari sono un pochino, ma non ho neanche fastidiose, perché poi non è un autore che si diletti di splatter, Tim Winton. Le parti più fastidiose, semmai, sono quelle in cui il ragazzo ricorda le botte del padre e la situazione in famiglia col padre. Comunque, e dicevo, quindi da un lato romanzo di sopravvivenza, da un lato romanzo di formazione, perché ti fa vedere questo ragazzino che attraverso questa esperienza poi cresce. E anche attraverso l'incontro con questo strano personaggio. Certo, che aleggia, infatti, che lo aiuta. Incuriosisce questo strano personaggio, sì, tra l'altro. E poi alla tra fine, tutti quelli citati. Alla fine? Eh no, non posso raccontare il finale. diciamo, al massimo posso dire che sì, è un finale positivo, se vogliamo. Noi, lo posso dire perché comincia così, cioè il romanzo inizia col ragazzo che sta guidando sull'autostrada verso una meta che poi impareremo è la ragazza a cui vuole arrivare, ed è molto contento perché finalmente è libero, sta guidando. Quindi noi il finale noi lo vediamo finalmente sulla strada, esatto, verso la sua meta, un obiettivo. Se certo, poi ci arriverà, che cosa succederà, questo ogni lettore è libero di pensare, da poi la sua interpretazione. Così come per arrivare a questo devono succedere delle cose che chiaramente sono abbastanza sconvolgenti, perché quando tu leggi l'inizio, che lui sta guidando sull'autostrada e poi lo ritrovi scalzo, lacero, eccetera, che si muove nell'outback, e che oppure lo ritrovi insieme, cioè praticamente confinato, imprigionato in questo capanno dal quale sembra non ci sia via d'uscita, insieme al prete, ti domandi, ma come ha fatto dopo a trovare percorso, una macchina? Come ha fatto ad certo, arrivare a quel punto? Com'è che è ancora vivo? Ecco. Sì, no, per essere ancora vivo poteva anche esserlo, perché in fin dei conti se lui si fermava nel capanno, questo, ecco, misteriosamente a questo prete due volte l'anno gli portavano delle riserve di cibo e di rifornimenti, per cui poteva riuscire a vivere. Il prete infatti continua a dirgli, ma stai qui, dove vuoi andare? E lui invece ha sempre questa idea, domani vado via, poi non va mai via. Però, ti ripeto, succede qualcosa di abbastanza, non tragico, ma inquietante, per cui lui sarà costretto a prendere delle decisioni, sarà costretto anche a coinvolgere questo prete, con risultati da un lato tragici e dall'altro però per lui alla fine positivi. Certo. Non posso raccontare niente, no, basta, perché è stata una sintesi per quanto riguarda l'intuizione di un possibile finale che poi scopriranno ascoltatrici e ascoltatori. Intanto vi ricordo che non sarete aperte, non dovrete fare 400 o 4000 chilometri prima di trovare un centro abitato. Se andate a Cavarsere sarete in un meraviglioso nulla, e allo stesso modo dopo 10 minuti, anche meno, sarete a Bosco Chiaro. Per per cui insomma tenete presente un po' anche le situazioni geografiche, che sono indubbiamente di grande suggestione, e nelle proporzioni altrettanto suggestive nel libro presentato da Silvia, di cui daremo titolo casa editrice e autore, perché allo stesso modo anch'io avrò un libro che ci porta attenzione a una realtà geografica ben specifica. Ho molto piacere che hai avuto parole di elogio per questo lavoro, so che sei molto attenta e per quanto riguarda determinati complimenti ne dai sempre in maniera giustamente misurata, ma allo stesso modo so anche che lo metterai in palio, come hai già detto in precedenza. Quindi che ne dici se facciamo uno stacco musicale e poi rientriamo, facciamo qualche analisi sul libro e poi diamo l'indicazione per poterlo avere, così arricchendo le biblioteche delle nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori? La playlist sarà tutta australiana, immagino. Abbiamo no. Tre pezzi tutti australiani e l'ultimo invece è la canzone popolare più famosa degli australiani, quella che loro cantano in tutte le celebrazioni, però rifatta da Tom Waits. E invece la prima che lancio adesso, vedo una copertina con questo personaggio, Kim Salmon and Surrealist. Allora, non lo conosco. Neanche io. Allora, è di Stefano. Devi sapere che i tre dischi australiani li ha scelti Stefano. Molto infatti bene. Come hai visto prima te li ha consegnati lui, ti ha detto lui quali e erano numeri, i brani. Infatti... I brani li abbiamo scelti insieme, ma i dischi li ha portati lui. Allora, il primo... Comunque sono tutti australiani doc. Allora, vediamo il titolo del primo. Mi che pare è il numero 2, mi sembra. No, è l'8. È l'8. Blue Velvet. Questo Blue Velvet. Ah, bello, un rifacimento di Blue Velvet, la famosa Blue Velvet. Certo. Vedrai come. Risposta audio così lo fai voluta, Silvia, non è che ho, perché mi preoccupo sul lettore CD, ha una è così, è così. Sì, mentre ascoltavamo ieri con Stefano, infatti dicevamo qualcuno scriverà ma avete dei problemi sul visto, mi sono subito ho avuto dei sospetti nell'immediato. È proprio così, e infatti And the Surrealist direi che è il gruppo che può accompagnare tranquillamente queste sonorità. Kim Salmon, Blue Velvet, avete fatto ricerche a proposito di questo standard, chiamiamolo così? Sì, abbiamo fatto ricerche e stavamo quasi per decidere di fare il quiz. Momento del quiz. Su Blue Velvet. Blue Velvet è una famosissima canzone americana del 1950 e io vorrei sapere chi l'ha lanciata. Chi l'ha lanciata? Ecco. Beh, più che altro chi ha avuto maggiore successo con questa canzone? Quindi, non l'autore. Gli autori sono difficili. Io chiedo. Chi è colui che ha avuto maggiore successo con questa canzone? Con questa interpretazione, Blue Velvet, per avere. Che deve essere poi l'interpretazione che si sente nel film di David Lynch. Sì. Infatti io la conosco, mi è venuto subito in mente il film di David Lynch viene messa nel film nell'interpretazione di questo famosissimo cantante americano degli anni 50, ovviamente. Allora, titolo, casa editrice, autore Tim Winton, Il capanno del pastore, Fazzi editore. Per voi al 333-180-94, sms, whatsapp e telegram, se volete, chi è il cantante o cantautore che ha riscosso... Autore. Cantante, qui siamo ai tempi, i cantautori vengono ben dopo. Ok, scusa. Questa è una canzone scritta, al tempo c'erano quelli che facevano le parole, specializzati in parole, quelli che facevano la musica e poi c'era l'esecutore. Perfetto, allora vogliamo appunto il nome dell'esecutore che ha avuto maggior ritorno e successo con l'interpretazione di Blue Velvet per avere il lavoro appena presentato da Silvia. A te è piaciuto, questo l'abbiamo detto. Sì, mi è piaciuto non è molto. Un tomo particolarmente, no assolutamente, no. Di media proporzione. Si legge molto bene, così. È molto scorrevole, ripeto, c'è questa voce di questo ragazzo che ti sembra proprio di parlare con un ragazzino di 15 anni che però ha avuto delle esperienze forti e quindi in qualche modo è un pochino più maturo della sua età. A me ha ricordato molto un libro, un racconto lungo che amo moltissimo e che consiglio a tutti, se non l'avete letto, di leggerlo, che è La solitudine del maratoneta di Alan Sillito, che appunto anche quello è tutto raccontato da un ragazzino mentre fa le maratone. Altro libro che ho perso, che vorrei leggere. No, quello va letto. Tra l'altro sono solo 80 pagine. Sì, è un racconto lungo, non è un romanzo. E secondo me Tim Winton si è un po' ispirato a quel personaggio, che anche lui ha 17 anni, e a quel tipo di racconto fatto in prima persona e al presente da un ragazzino nella sua voce. E così, per esempio qui ogni tanto trovi degli errori di congiuntivo che sono fatti apposta, ovviamente, perché il ragazzo non... Io li faccio naturalmente, quindi comunque il brano che ci porta alla pubblicità, aspettando la risposta per l'interprete di maggior successo del brano Blue Velvet degli anni 50 è Xavier Rudd. Intanto il brano invece che ci porta allo stacco pubblicitario, anche in questo caso restiamo in Australia. Sì, i primi tre sono tutti australiani. Bene, il brano che vi proponiamo è illeggibile perché è una grafia illeggibile quello che c'è in una particolare copertina. Se comunque, vuoi te lo leggo perché non ce l'ho riuscita a leggere. E magari lo diciamo dopo la pubblicità. A tra poco. Va bene. We'll be right back. Lui è Archie Roach ed è bello questo insieme perché è Archie Shepp e Max Roach, ma non stiamo parlando di jazz, non vogliamo far confusione, è Archie Roach. Sì, ecco. È la colonna sonora del film The Tracker, che vi consiglio caldamente se non l'avete visto, è un film molto molto bello e Archie Roach è un cantante aborigeno. Far Away Home è molto è l'altro. Molto in linea Mamma con mia, il mio sei colonna sì. sonora sì proprio l'altro. Sarebbe anche la del libro. Sì sarebbe la colonna ideale anche di questo libro. Sì, il brano ascoltato in precedenza più ruvido di Xavier Rudd, ho detto col rientro vi darei il titolo, è Dark Shades of Blue, che dà il titolo poi a tutto il disco. E intanto ringrazio Paola che scrive: buongiorno William e Silvia, buongiorno a te Paola, la risposta al quiz penso sia Tony Bennett, grazie. Se togli il penso è perfetta, immagino. Sì, sì, era Tony Bennett. E quindi tu hai vinto il lavoro presentato da Silvia, che potrai ritirare da oggi pomeriggio alla libreria Ubik in Virnerio 27, ovviamente a Bologna. La libreria Ubik tiene questo tomo? Ma cioè, perché? Anzi, ma certo, ci mancherebbe. No, perché lo dico per Paola, se non aveva sentito, perché non è il libro, sono le bozze, quindi è ma una... sono ancora più preziose, te l'ho detto. Sì, ma è una cosa che una libreria di solito non tiene. Ho capito, ma dai, non siamo così fiscali. Poi okay. Voglio dire, potremmo trovarlo sul Manifesto? Dio, devo ancora scriverlo, quindi non so quando. Però sì, prima o poi ci arriva. Prima o poi potrebbe essere. Sì, sì. E intanto allora parliamo di un altro autore che io amo tantissimo, di cui ho dato anticipazione. Logistica della situazione di presentazione, due libri mi sono stati proposti da Adelphi, anzi per meglio dire uno, però io ho dato un occhio in libreria e ho trovato il nome di Lawrence Osborne e non ho potuto fare a meno di prendere anche quello. Il libro presentato, invece, anzi proposto da Ubik, lo porteremo nella prossima puntata. Promesso, una piccola licenza willata per un willato Lawrence Osborne. Java Road, il lavoro che è portato in Italia dopo tanti lavori come Cacciatori nel buio, che per me è un quasi premio Pellegrino di cui tanto vi ho parlato, resta un autore che si muove in territorio orientale e in questo caso siamo a Hong Kong con tutte le contraddizioni. È bello il parallelismo di un tramonto che, come riporta lo stesso autore, è quel momento che, se non te ne accorgi, è subito notte, è subito buio, quindi attenzione a questi percorsi dove due protagonisti, uno è tipico, dico la verità, non dico che sia un difetto, ma è quantomeno una caratteristica di Lawrence Osborne, Lawrence Osborne è Adrian Gyle, il nome del protagonista, che si trova anche io narrante all'interno di questo romanzo, è a Hong Kong, è questa figura che, amante del territorio e non solo, anche della poesia cinese, di cui ci sarà grande approfondimento, perché lo lega tantissimo a un ragazzo ricco, ricco di famiglia, che fa parte di questa generazione a Hong Kong, che fa un po' il doppio gioco, sia con la Cina, sia con i movimenti di protesta. Fra l'altro, Lawrence Osborne dà un dettagliato spaccato anche della situazione, chiamiamola politica, di quello che ha vissuto Hong Kong e che sta ancora vivendo, e da questa Java Road sembra veramente che non si salvi nessuno, in quanto questa generazione molto benestante è una spaccatura sociale, la protesta studentesca, come vi ho detto, queste figure che fanno un po' il doppio gioco tra la situazione e l'altra, e Adrian Gyle, grande amante del territorio, come tutti i protagonisti di Lawrence Osborne, si ritrova in una situazione, non dico tra l'incudine e il martello, ma abbastanza compromettente, anche perché, che succede? Arriva Rebecca, è una figura femminile che diventa allo stesso modo protagonista, in quanto l'amico benestante di Adrian, Jimmy Tang, ha un'attrazione, ecco perché non si può parlare di relazione in questo caso, ha un'attrazione. Adrian non sa come fare, vorrebbe dirlo alla moglie, perché allo stesso modo anche Adrian non è poi così estraneo all'attrazione per questa ragazza molto bella. Questa ragazza, tra le proteste, lei è un'attivista, è una giovane studentessa, tra le proteste, che tra l'altro sono represse in maniera molto forte, a un certo punto scompare, e qui la svolta in Java Road, dove la narrazione, come spesso capita, pervasa da un realismo magico, ed è un motivo in più per l'attrazione che io ho per Lawrence Osborne, diventa, come spesso capita, un lavoro a tinte, ma in maniera raffinata, molto molto noir. E quello che riguarda la scrittura di Osborne, ve ne ho già parlato più volte, il realismo magico che va a permeare le pagine del lavoro, anche Java Road, i personaggi, soprattutto il protagonista, che può essere abbinabile ai protagonisti dei lavori dello scrittore londinese che però vive a New York, classe 1958, dal 1992 vive a New York, piccolo dato di cronaca per quanto riguarda anche l'ispirazione, grande viaggiatore, anche lui allo stesso modo deve essere molto attratto dai paesaggi d'Oriente, in quanto tutti i romanzi da lui portati hanno ambientazione, ad esempio Bangkok, ecco questo ne è un altro, e Java Road ambientato arrivato ad Hong Kong, che tramonta e non si salva nessuno. Facciamo uno stacco musicale, dopodiché vi porto il quiz. E siccome oggi l'Australia è protagonista, lo faccio facile, ma sempre in tema Australia. Questo che hai detto è la canzone nazionale dell'Australia. Spiegami bene. No, è molto bello. È la canzone nazionale australiana, un po' come il loro Bella Ciao. Solo che però non è di ispirazione politica, ed si chiama Waltz in Matilda. Loro la cantano sempre quando ci sono delle celebrazioni, quando sono un po' alticci, sì. Ed è una canzone che parla di un vagabondo che va in giro per... E cerca Matilda. No, Matilda, lo sai cos'è Matilda in australiano, in slang australiano? È un sacco a pelo. Quindi, per ripararsi. Sì, Waltz in Matilda, appunto, è lui che in qualche modo fa un giro di danza riparandosi con questo sacco a pelo. Bello, romantico. Ed è una storia tristissima, perché alla fine, piuttosto che sottomettersi al padrone terriero che vorrebbe, che gli imponderebbe delle... Lui si suicida, si annega, si va ad annegare. Si abbandona con Matilda, questo tragico abbraccio. Infatti, proprio così. Of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken. And my stasis is soaking wet. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do. Down on my knees tonight. Old Bushmills, I staggered. You buried the dagger. Your silhouette window light. Ispirazione australiana. Intanto ricordiamo, non so se l'abbiamo detto, ma lo ripeto, è Tom Waits, ma è molto riconoscibile, insomma. Questo abbraccio in Matilda, che non è una ragazza ma è un sacco a pelo per proteggersi dalle intemperie in maniera così immediata. Allora, è di ispirazione australiana, ma ci porta, come ben sapete, in prossimità di casa nostra, o per meglio dire in regione. Il lavoro è di Lawrence Osborne, di lui e leggete tutto, ovviamente, quindi non perdetevi questo Java Road e l'occasione di portarlo nelle vostre librerie. Allora, Liars Rock in Australia è ovviamente questa roccia che spunta nel paesaggio desolato, enorme, questo colore rosso. Non è esattamente un paesaggio pianeggiante, però al fascino sull'Appennino tosco-emiliano, vicino a Castelnuovo nei Monti, a Reggio Emilia, una pietra, ed è anche lei. Intorno a lei ci sono tante leggende e tanto esoterismo. Come si chiama questa pietra vicino a Castelnuovo Monti, nell'Appennino tosco-emiliano, vicino a Reggio Emilia? Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. Firmati chi sei, Marco, se ho intuito bene sei Marco, ed è esattamente la pietra di Bismantova, per cui hai vinto il Java Road Lawrence Osborne edizione Adelphi. E sta scrivendo, vediamo se ho azzeccato il nome, Matilda's the defense. Ok, grazie Marco, sì, quello l'abbiamo. and she follows wherever you may. Dino dice la Rocchetta Mattei, no, quella è una, quella non è una pietra, è una costruzione, ecco, è un aspetto edile più che una pietra portata così in maniera improvvisa dalla natura. Anche dietro alla pietra di Bismantova vi sono diverse leggende e insomma alcune attinenze possono essere assolutamente comparabili al realismo magico di Lawrence Osborne. Java Road, edizioni Adelphi, l'abbiamo conosciuto con Cacciatori nel buio, resta comunque forte le sue caratteristiche per l'Oriente, in questo caso siamo a Hong Kong, e con questo direi che abbiamo finito il nostro Voltiamo Pagina. Vedo se ci sono altri messaggi per non tralasciare nessuno nella nostra diretta che come ogni mercoledì vi consegna Previo Quiz due lavori. Grazie Paola e grazie Marco, vi ricordo che da oggi pomeriggio i due libri vi aspettano alla libreria Ubic, sita in via Irner. Io mi sono allungato perché ho messo un brano che ci porta alla conclusione. 27 a Bologna. Appuntamenti, Silvia? Oh sì, dai. Mi stavo dimenticando, stasera io, se qualcuno vuol venire fa molto piacere, parlo di Dickens e in un mio must, esatto. In sala borsa. Bene. Alle 18:30 nell'ambito della rassegna Scrive chi legge, organizzata dall'Associazione Scrittori e Scrittrici di Bologna. Ecco, io parlerò in special modo di un romanzo fra i più belli di Dickens, cioè Casa Desolata e Bleak House. Quindi chi vuol venire fa piacere. Alle ore? 18:30. Okay. Oggi, mercoledì 22 novembre, terminati il Voltiamo Pagina. Mercoledì prossimo tornerà il nostro format letterario con tanto di incipit che abbiamo un po' trascurato. Abbiamo l'Edipo Enciclopedico Liberi Dentro a seguire, la rassegna stampa, poi il nostro Nevio con il Rock Live, e a tutte e a tutti un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. A proposito di Reggio Emilia, domani vi porto in mostra, è una mostra molto bella, a Palazzo Magnani, e quindi vi aspetto alle ore 6. Grazie Silvia. Ciao. Grazie a te Willy. Ciao, ciao a tutte e tutti.